L'Evangelo per radio. Schiavi di Cristo. Carissimi amici, coloro che si prendono il delicato compito di tradurre nella propria lingua le opere dell'antichità, si trovano davanti a un dilemma la cui alternativa è altrettanto problematica. Nel corso dei secoli, i costumi, le relazioni sociali, le usanze, si sono modificate in gran parte sotto l'influenza del cristianesimo. Anche alcuni termini, che esprimevano allora perfettamente un'idea, non sono più compresi dai nostri contemporanei. Per renderli comprensibili bisogna modernizzarli, o renderli con il loro senso primitivo che sfugge spesso ai lettori moderni. Le difficoltà aumentano. Quando si tratta di tradurre la parola di Dio dal suo testo originale, e queste difficoltà diventano maggiori in misura direttamente proporzionale all'importanza unica della verità da trasmettere. Ogni parola è importante, e una traduzione imperfetta può avere delle conseguenze disastrose. Ai nostri giorni si è scelto in generale il meno peggio, e le nostre versioni usano delle espressioni che cercano di essere alla portata di tutti. Questo certamente è un bene, solamente che in molti passi si è indebolita l'energia di quello che vuol dire la scrittura. E questo è il caso di una parola che troviamo in una frase che ha detto l'Apostolo Paolo e che vorrei portare all'esame della vostra attenzione. L'Apostolo Paolo, scrivendo la lettera ai Galati, all'inizio affermò: «Cerco io di piacere agli uomini. Se cercassi di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo». Nel testo originale greco, anziché la parola servitore usata la parola schiavo, e Paolo, che era un uomo intelligente, non parlava certamente alla leggera. Di conseguenza, se egli aveva messo la parola schiavo anziché servitore, è perché appunto aveva le sue ragioni. Consideriamo un attimo qual era la sorte riservata allo schiavo del primo secolo della nostra era. Egli era considerato come proprietà del suo padrone, esattamente quanto i beni e le bestie, per cui questo proprietario poteva disporne secondo la sua fantasia. Lo schiavo non aveva il diritto di fare una cosa, oppure non farla. Il suo unico atteggiamento legale era la sottomissione senza riserve ai capricci del suo possessore. Lo schiavo non poteva prendere parte agli affari della città. Se poi pretendeva di essere un servitore di una divinità, secondo il pensiero filosofico del tempo, la offendeva, poiché gli dèi traevano la loro gloria dall'essere serviti da uomini liberi. Inoltre, per i rabbini, dire a un uomo «tu sei uno schiavo» era la peggiore delle ingiurie, e colui che si rendeva colpevole di questa ingiuria meritava di essere cacciato dalla sinagoga. Lo schiavo, quindi, era considerato come diritto e dignità al pari di un animale, o forse anche meno, perché la storia ci dice che quando alcuni anfitrioni, cioè coloro che offrivano un pranzo a molti invitati, ricevevano degli ospiti illustri, lasciavano gli schiavi nei vivai dei pesci, dove allevavano le lamprede, perché questi pesci divenivano di sapore più delicato quando avevano mangiato la carne umana. Comprendiamo quindi la portata di questo. Quando egli affermò: «Se cercassi di piacere ancora agli uomini, non sarei schiavo di Cristo», è come se egli dicesse: «Io sono davanti a Cristo come uno schiavo davanti al suo padrone. Dipendo assolutamente da lui, non ho altra volontà che la sua». Tale è stata la sua condotta, che egli ha sempre tenuto nel corso del suo ministero, mettendo in evidenza l'abisso che lo separava. Quando egli era fariseo, prima della conversione, quando cioè egli certamente si sarebbe molto indignato se un avversario lo avesse chiamato schiavo. Ora, egli stesso usa questo termine, abolito per descrivere i legami che lo uniscono a Cristo. Inoltre, ci è un altro contrasto che è degno di essere messo in rilievo. L'Apostolo Paolo non si limita a prendere questo titolo di schiavo, ma oppone il suo atteggiamento a quello che tengono generalmente gli uomini. Infatti egli dice: «Se cercassi di piacere ancora agli uomini, non sarei schiavo di Cristo». Piacere agli uomini è la tentazione più sottile di ogni servitore di Dio, perché si pensa in questo modo che la causa del Salvatore, a cui si è consacrata l'esistenza, sarà meglio servita. In fondo si pensa che per agire sugli altri bisogna sedurli. Sembra che anche Paolo abbia conosciuto questo ingannevole argomento, e ne è la prova la piccola parola ancora, che molto facilmente passa inosservata, ma che acquista importanza se noi la meditiamo. Infatti egli disse: «Se cercassi di piacere ancora agli uomini, mostrando che una volta cercava di piacere agli uomini, ma che ora voleva a tutti i costi piacere al Signore di cui era schiavo. Quindi, chi è schiavo di Cristo evita di accattivarsi il favore degli uomini. Bisogna scegliere. Gesù un giorno affermò: «Voi non potete servire a due padroni», e l'apostolo. Paolo aveva ben compreso questa frase, sapeva che non poteva piacere agli uomini e al suo Salvatore. Ci è un'incompatibilità assoluta, poiché due potenze ostili si trovano davanti. Cercare di piacere agli uomini sarebbe per Paolo non essere più schiavo di Gesù Cristo. Seguiamo noi, segui tu, caro ascoltatore, un tale esempio. Da questi microfoni più di una volta ti abbiamo esortato a dare la tua vita a Dio, a consacrarla a Lui. Se non lo hai ancora fatto, perché non hai risposto a questo appello? Temi forse di perdere la tua indipendenza? Il termine schiavo ha forse aumentato il tuo indugio? Una cosa è certa, noi siamo sempre costretti a ubbidire a qualcuno. Se non è Dio, è il diavolo. Se ti rendi conto anche tu che da ambo le parti si tratta sempre di schiavitù, scegli dunque fra le due schiavitù quella di Dio. Perché ti esortiamo a fare questo? Perché essere schiavi di Cristo significa avere la calma e la pace anche nella sofferenza, vuol dire avere la possibilità di gloriarci come l'Apostolo Paolo in tutte le nostre prove. Non tremeremo più davanti alla prospettiva della morte, ma la saluteremo come messaggera di una buona notizia. Dopo essere stato schiavo di Cristo sulla terra, andrai ad esserlo anche nella gloria di Dio. Che Egli ti dia di scegliere la schiavitù di Cristo.